24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, diciamo, per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Io vi chiedo di fare poche ferie. Noto l'entusiasmo. No, ora capisco di non essere stato particolarmente incisivo fino ad ora, ma che il primo segnale di vita arrivi sulle ferie, voglio dire, essendo in streaming si passa male, ragazzi, io ve lo dico, cioè evitiamola sta cosa, perché sia chiaro, io in ferie ci vado e faccio 5 settimane di ferie. Sia chiaro subito, ma credo che Renzi si riferisse ai parlamentari del PD, eh? Poi ha detto abbiamo fatto tanti decreti, dobbiamo... Io decreti manco mezzo ne ho fatto. Tu, Peter Pescapè, hai fatto qualche decreto ultimamente? No, stai lì, quindi vai in ferie tra 2 giorni. Tu, Giorgino De Luca, lì in redazione, hai fatto decreti? No, manco lui non ha fatto decreti, quindi tu puoi andare in ferie un po' più avanti, però se puoi andare in ferie. Renzi dice ai parlamentari... Poche ferie, poche ferie. E oggi il Sole 24 Ore titola c'è lo stallo, c'è l'ingorgo, ci sono luglio e anche agosto da passare imbullonati lì sugli scranni del Parlamento. Tutta gioia per Vincino, tutta gioia per Vincino, che lui segue tutte le sedute di Senato e Camera. Vincino, buongiorno, tu le segui tutte. Buongiorno. Sei felice, no? Di passare. Sì, ogni tanto, insomma, poi quelle noiosissime come l'ultimo giorno ieri, oggi, l'altro ieri, no, perché era... Zero. Praticamente è un funerale. Un funerale, sì, il funerale del Senato. Che è morto là e tutti a fare com'era bravo, com'era coso, e quell'altro, no? E nel 48 e là. Ma di che hanno parlato ieri? Ma che schifo hanno fatto? Ogni senatore si è alzato e per 20 minuti ha fatto la sua pippa su quanto era bello il Senato. Ah, è quello in quel senso il funerale. I senatori del PD, del 5 Stelle. Mamma mia, che noia mortale. Della Lega, una cosa, guarda, è tutte, pure quella là, la senatrice a vita, che poveretta là è arrivata a 50 anni senatrice a vita. Ma chi, no? La Cattaneo. Sì. Allora quella, naturalmente, uno arriva a 50 anni senatore a vita, dice c'ha altri 30-40 anni, insomma, tranquilli. No. E gli levano l'anno dopo subito, gli levano il Senato, è una tragedia. Effettivamente, non ho mai pensato a questa cosa, la senatrice Cattaneo. Porca miseria. Pensava con questo stipendio di senatrice, lei stipendiava tutta una equipe di ricercatori per i prossimi 30 anni e via. E invece è via di colpo. Vabbè. Allora, Vincino, fatemi aprire il Parlamento, dai, che devo salutare anche un altro granditissimo ritorno, che è il nostro, non è Nicole Minetti qui che offre il caffè, ma il nostro Paolo Del Debbio, buongiorno. Nicole Minetti, mamma mia. Che fine avrà fatto Nicole Minetti? Buongiorno. E chi se ne frega? Eccolo là, subito per esordire, subito bene. Come va? Tutto bene? Tu farai poche ferie, tante ferie? No, io faccio un bel po' di ferie, decreti non ne ho fatti neanch'io, neanche decretini, e quindi me ne sto un po' a riposo. È tutto a posto, si può, col beneplacito di Matteo Renzi. Se la veda con quelli del PD, sono tutti contenti. Infatti, devo dire che saranno tutti felici di queste poche ferie. Vabbè. Ma sì, tanto che vanno a fare ferie, poi si annoiano. Meglio stare lì imbullonati. Ah sì, imbullonati. Stiano lì a sistemare il paese. Allora, io vi vorrei porre questa questione che oggi è l'apertura di tutti i giornali. Secondo voi a un operaio o a un impiegato o a un dipendente, non so, a un commerciante, a un artigiano, una casalinga, quanto interessa questo bel mercanteggiare di poltrone all'Unione Europea? No, Paolo Del Debbio, forse mettiamola a Mogherini, ministro degli esteri europeo. Cioè, tutto, hanno rinviato un vertice perché non si sono accordati sulle nomine. Quanto potrà interessare? No, alla gente, diciamo, chi ci metti non, interessa poco, anche perché non le conoscono, la stragrande maggioranza delle persone, si dice Mogherini, pensa sia una marca di caffè, non è che pensa che sia un ministro, insomma, no? Ci sta una marca di caffè oppure di pepe, insomma, una affare del genere. Però gli interessa ormai tantissimo a quasi tutti, anche alle persone più umili, io lo vedo in trasmissione, dire ma insomma si conta un po' di più se ci vanno questi oppure no, oppure si fa tutto quel che dicono loro, questo gli interessa. Cioè, quanto può contare l'Italia rispetto. Insomma, decidono tutto gli altri e si comincia a contare qualcosa anche noi. Oh, questo interessa. Oh. Anche alla persona più umile. Anche alla persona più umile. Questa lettura ti piace, Vincino, questa lettura? Contiamo di più in Italia, contiamo di più in Europa, noi italiani. No, allora, notiamo per una mano che la riserva della Mogherini non è Chiti, come diceva qualcuno nel tweet, ma è D'Alema, no? Come dire, questo qua è arrivato proprio, ha fatto tutta la carriera, è stato premier e per diventare riserva della... Vabbè, insomma, guarda che qua, Vincino, però Vincenzo, qua c'è un retroscena straordinario. Io l'ho detto ieri per scherzo, ma il Sole 24 Ore lo scrive veramente. Pare che Renzi abbia buttato lì il nome di D'Alema per rinfonzare la candidatura della Mogherini, cioè, come dire, se no vi tocca D'Alema, ecco questo. Sì, l'ha usata ancora peggio, insomma. Ho capito, vabbè. No, io devo dirti una cosa, poi parlando seriamente, io penso che invece le persone contino molto. Cioè, allora con l'Ashton non contava niente il pesce, no? Come cosa, sì. No? Con uno bravo potrebbe invece contare molto. Cioè, per dirti, non so, il presidente del Consiglio Letta non contava niente, no? Questo qua Renzi invece la cavalcata, cavalcata. Ma la domanda non era questa. La domanda non era questa, è seconda di più d'Italia. È un secchione che mi dice la domanda non era questa. È il professor Del Debbio, ho rispetto. Però io sono un po' anche, insomma, mi sono svegliato male stamattina. Ecco, questa è la risposta Del Debbio, questa è la risposta migliore di Vincino, mi sono svegliato male. Alla domanda precedente, quelli del PD, cioè il 43% lo vogliono pagare sì o no? E allora tutta la strada allora hanno il 43% e via, si devono prendere la responsabilità di tutto. Ho capito, ma qui siamo alle ferie. In vacanza e quelli lavorano. Qui siamo alle ferie. Comunque, sentite Mario Monti sulla Mogherini, ma perché Monti ce l'ha con la Mogherini adesso? Sentiamo. Quale sarebbe un titolo giusto per la Mogherini, secondo lei? Forte, competente, speriamo che ce la faccia. Allora, correggiamo il titolo al volo, magari. In genere, per affermare una persona in un contesto internazionale. Però lei è un riferimento all'esperienza. No, certo. L'ha fatto alla... certo. Okay. Cioè, sì. Non si può dire che il suo punto di forza è probabilmente anagrafico. Diciamo questo, che è stato un... Insomma, diplomatico è Del Debbio, non si può dire. No, va bene, che non ha anche l'esperienza, va bene, ma non ce l'ha neanche Renzi l'esperienza di far presidente del Consiglio, eppure insomma, voglio dire, non è che vampeggia degli altri, no? Quindi non... sono tutti discorsi che valgono fino a un certo punto, anzi, a volte si vanno in un posto e la non esperienza funzionano pure meglio. Quindi, d'accordissimo, giusto. Oh. Tutte palle. Oh, viva la Mogherini, che è un modo per dire viva l'Italia. Ma che poi voglio dire... No, però... io non dico viva la Mogherini, dico che tutte queste premesse di Monti, sì, che poi lui c'è stato nei posti, esperienza, appunto, l'aveva, ha fatto un casino. Ah. Quindi che vuole Monti? No? Che vuole Monti? Sia a casa e faccia tante vacanze fino almeno al prossimo anno, così non lo sentiamo più. Vacanze prolungatissime, Monti. Sì. Allora, infatti, giudizio di Vincino su Monti? Tanto non è del PD, per cui può fare. No, il giudizio su Monti è proprio un disastro di quelli proprio cosmico, guarda. Eccolo, assolutamente, guarda. Vedi? È proprio, si è preso l'Italia che era in crisi e l'ha portata nella fossa più profonda. No, ma no, dai, guarda, adesso. Cioè, sono ancora 400.000 disgraziati ancora fuori da tutto, esodati da tutto, perché grazie, ringraziano ancora molto. Abbiamo sistemato anche questa. Però sapete che da giorni qui diamo il voto all'inglese di Renzi, no? abbiamo sentito un discorso recente di Renzi in inglese. L'hai sentito del debito, quello a Venezia? Ha parlato. No, non l'ho sentito. Non no, abbiamo no. Prima del mitico rap, non riusciamo a recuperare un Renzi in inglese originale. No, vabbè, insomma, vediamo. Perché ha fatto questo discorso in cui si è dibattuto sì, molto. Sì, che l'ha fatto, sì, ho visto, tutti l'hanno criticato perché è un inglese un po' maccheronico. È un inglese un pochino maccheronico, sì, però. Sì, sì. Però vabbè, che cosa è nato da questo inglese? Sì, alcuni di quelli che lo hanno criticato non sanno neanche di sì e no in inglese. Questo è vero, insomma. Sì, ma da questa critica ne è nato un montaggio un po' stile Grease che è stato lanciato su YouTube e circola molto. Sì, facciamo ma così, ma per divertirci, sentite come hanno remixato Renzi. He was a worker, so he invented the because in the field in the structure, in the marketing, in the commercial, in the lessons, in the but for country, this is also the representation. My mother, the who cry, in the TV one, in the TV one. E vabbè, e così la gente si diverte così anche sulla rete, eh? Che dobbiamo fare? Tutto ironia. Vabbè, ma che dobbiamo... Noi italiani abbiamo una scarsa dimestichezza con le lingue, diciamo, no? Tutte praticamente, l'inglese maccheronico è una delle nostre passioni, come il latino maccheronico e tutto. Sì, no? Sì, e che dobbiamo fare? Questo è Renzi. E vabbè, gira molto, la gente ride, si diverte. Un corso io lo farei al suo posto però, eh. Un corso di quelli là... A Oxford, là, 15 giorni proprio. Ma lei sei presidente della Commissione? Sì, della Commissione, presidente dell'Unione Europea per 6 mesi. Insomma, qualcosa. Vabbè, ma dai, se la cavicchia, su. Ma tu che hai scritto, il libro, La cavalcata, dovresti dire che Renzi è il migliore. In inglese non l'ho fatta la traduzione in inglese, ora la faccio la traduzione per il pubblico là, per il resto del mondo. Insomma, vabbè. Hai ragione. Però io, ecco, una domanda che si pone invece. Che si pone adesso, che si pongono i giornali, è invece sulla questione delle riforme. Io vorrei capire da Paolo Del Debbio, uno che Berlusconi in qualche modo lo conosce, l'ha conosciuto, che cosa c'è in questo patto del Nazareno? Io lo chiedo a tutti, ma perché Berlusconi va di pari passo con Renzi queste riforme? Ci sarà un do-des, uno scambio, una promessa di qualcosa che gli avrà fatto Renzi, no? Questa ci sarà, magari sulle televisioni, sull'assetto televisivo, eccetera. A parte che non è più il tempo della mammì di quei tempi lì, cioè il tempo è diverso ora, perché tutto il discorso di una volta, no? Per parlare due secondi serio, tutto il discorso di una volta era la scarsità delle frequenze. Siccome le frequenze sono poche, allora non è democratico che uno ce ne abbia tante, va bene? Se no rimangono fuori tutti. Sì. Ma oggi con digitale, satellitare, c'è questo problema qui. Cioè il conflitto di interessi non c'è più. Non c'è più il problema delle frequenze, c'era quindi problemi grossi da questo punto di vista. Pubblicità ce n'è sempre meno, non sono le vacche grasse, quindi il problema di chi di toglierla ora non c'è, semmai c'è di aumentarla. La pubblicità, insomma, mi sembra il problema c'è meno. Ecco. Quindi ci sarà qualche patto. Patto sulla magistratura non ci può essere perché evidentemente non starebbe funzionando e quindi io penso che invece il vero patto sia che siccome Berlusconi non si fida della capacità propositiva e di opposizione dei suoi e poi siccome vede che comunque sia ora il vento, perché lui lo intuisce il vento del paese, è con Renzi, ritiene che fare opposizione ora sia controproducente. Quindi è una scelta lungimirante politica. Vincino, tu che ne pensi? L'ha intuito pure Grillo che il vento è cambiato praticamente, scusi, se non l'avesse intuito lui un anno fa, ma il patto è il patto, cioè non c'è il tutto il cosa, proprio è nel patto stesso il guadagno. Bravo, esatto. Il patto e via, siamo tutti e due i pattisti e rinnoviamo l'Italia a capocchione, insomma, come stanno facendo, però d'altro canto... Tanto, com'è che la rinnovano? a Capocchione là, che vuol dire? Cazzo di cane, ah, cazzo di cane, ah, va bene, termine ah, più inglese, diciamo, va bene, dice, no, dog's dick. A, sì, dog's, a sì, dog's dick, a dog's dick, sentite, sentite il professor Del Debbio come potrebbe insegnare l'inglese a Matteo Renzi, a dog's dick, ecco, ecco. Don't make reforms a dog's dick. Don't make reforms a dog's dick, ecco. Va bene, Vincino, ma stavi per, hai nominato il Movimento 5 Stelle, io sono, no, qui pronto, sì, su Twitter, no, hai qualcosa, quello che io ho detto da tanto tempo, Grillo, sì, non ne può più. Grillo non può più, arriva, allora, a Roma, sta un giorno, due giorni, va alla ristorante della cosa, dove prima del Senato, dove si mangia peraltro male, costa poco ma si mangia pure male, sì, no. Vabbè, però Grillo non ne con può Rocco più Casalino, ma con Rocco Casalino come si fa? Cioè, io se passassi un'ora con Rocco Casalino già starei malissimo, no? Ti immagini quelli che sono passato quant'è, un mese là nella, come si chiama, nella gabbia, no, com'era quella cosa là, sì, prima, al Grande Fratello, al Grande Fratello, no, le cose è questo, cioè, proprio, infatti ha detto Casaleggio si farà la casa a Roma, sì, io l'aiuto pure io nell'arredamento e via, io non mi vedete più, non mi vedete, torno più in Sardegna, sto sino a settembre in Sardegna, mi devo allenare, devo fare, sta la spavaranchiato la cosa, e ha ragione, quindi e vabbè, ha ragione, ma tu ti immagini la taverna, che cosa, c'è uno peggio dell'altro, insomma, quell'altro, quel piccolo andiottino che fa il vicepresidente della Camera, quello che studia, perché ci vedremo oggi pomeriggio a che ora, alle 3, sì, streaming là, sono pronto, penna, matita e tutto. È quel piccolo Andreottino che è Di Maio. Di Maio. E la sai, tutto, cioè, ora si comincia a ingubbire a poco a poco. No, no. Vabbè, tra poco la twitto, andiamo al traffico che la twitto, la sto preparando. 24 mattino. Donne, è arrivato Alessandro Milan, l'arrotino dell'informazione. Salve Milan, no, non sono arrabbiata, ho solo una curiosità. Ma come mai Renzi, il ciarliero, fa tutto in diretta streaming e solo quando si vede con Berlusconi e Verdini tiene tutto insaccottato? Milan, sei solo chiacchiere giornale, sei solo chiacchiere giornale, sei solo chiacchiere giornale. Secondo me Antonio Conte si è dimesso dalla Juventus perché aspira a fare l'allenatore della nazionale, oppure l'allenatore del Milan, oppure l'allenatore dell'Inter. Avete capito? Però raddoppia la pretesa economica. Ciao. No, un forcone no, ma una canzone vorrei procurare. No, ce l'ho già, la canto spesso. Se sei bello ti tirano le pietre, se sei brutto ti tirano le pietre. Qualunque cosa fai, ovunque tu andrai, ma sempre pietre in faccia prenderai. Sarà così finché vivrai. Adesso so chi è quello che parla in modo incomprensibile, Vincino. Ma che si metta la mano sulla coscienza e che cerchi di farsi capire, visto che parla per radio. Complimenti Alessandro Milan, ma per carità, Vincino, o smetti di parlare o impara a parlare. Hai capito, Vincino? Sì, possiamo fare. Però quella, tu che sei l'arrotino dell'informazione, è bellissima. Bellissima. Allora, aspetta. L'arrotino dell'informazione. Sto twittando, Vincina 24 mattino, Grillo non ne può più, un'ora con Casalino e stai malissimo. E quel piccolo Andreottino Di Maio tra un po' si ingobbirà. Sì. Va bene? Rispondi. Sì, poco cosa rotonda, è vero. Sì, va bene, va bene. Rispecchia il pensiero di. Mentre invece, Berlusconi, allora c'è la conferma, caro Paolo Del Debbio. Oggi il senatore D'Anna, dopo aver negato per due giorni, ha confermato. È vero, mi ha mandato a fare in culo. Anzi, per la verità, dice. Ha detto ha detto andate a fare in culo. Eravamo io, Minzolini, Bonfrisco e Capezzone, ecco, Del Debbio, quindi ne ha mandati quattro. E poi ci sono andati? No, non lo so, questo non lo so, però quattro in una volta, ecco, per... Si vede che era un bel culotto, insomma. Vabbè. Allora, sentite sempre sulle riforme, Gasparri, sentite un po' che dice, sentite. Io ho presentato degli emendamenti, non mi interessa cosa dice la Boschi, io sono presidenzialista da quando la Boschi andava ancora alle scuole elementari. Le aperture delle interviste della Boschi contano meno dei bigliettini dei baci Perugina. Eccola lì, meno dei baci Perugina, mamma mia. Invece questo gli è rimasto fedele a Berlusconi, un disastro. E invece senti un po' vicino il premier Ombra, sai chi è il premier Ombra? Cosa? Rotondi. Rotondi, bravo. Rotondi, che ha fatto il governo Ombra su Renzi. Io penso che, per usare una parola che gli piace, Renzi c'ha in mano gli strumenti per asfaltarci tutti. Un centrodestra che sta in bambola, i suoi parlamentari che se li ha scelti Bersani e Grillo che non sa più che fare, e ci asfalterà tutti. Ci asfalterà tutti, questa è la verità. È un po' la pubblicità del tuo libro, Vincino. Assolutamente sì. Ma è così, cioè, del debito. In questo momento, per esempio, la teoria di Mario Dinolfi è Renzi, in questo momento è stato proclamato col 40% imperatore d'Italia, può fare quello che vuole, ma è davvero così o vincerà questa palude fantomatica? Sa, perché poi dopo quel 40% conta per tutti, escluso per gli apparati dello Stato, per cui quelli poi vanno dove cacchio vogliono, quindi insomma poi deve passare anche di lì, però insomma delle prove di forza le sta dando, ora vediamo, insomma diamone ancora un po' di tempo. Diamole per ora un po' di tempo. Lui è al 44 per ora, eh? Com'è il 44? È già aumentato, vedi gli ultimi sondaggi al 44. Ah dai, i sondaggi, si sono visti gli ultimi elezioni, i sondaggi quanto contano. Ho capito che non, però come dire, insomma, è comunque c'è la freccia che sale, mentre tutti gli altri hanno la freccia che scende. Sotto. Io una cosa, fuori dalla politica, no? Ieri a Roma, la linea del metro che io prendo sempre, sì. La vanno a piantare un palo e che cosa fanno? Bucano e arrivano a colpire il metro sotto a Lepanto, stazione Lepanto, che è la mia stazione, no? E bloccano tutto per 2 giorni. Cioè, ma che allora? Beh, come dire, insomma, no? Ma che c'è? Simbolico, no? Voglio dire. Vabbè. Sì, così Vincino è così, ha dei suoi percorsi. Del Debbio, aiutami tu a interpretare i percorsi mentali di Vincino. Beh, sai, il Vincino che prende la metro alla stazione Lepanto è già metaforica al massimo. La battaglia di Lepanto. Capito? E poi con un bastone che magari portava un simbolo religioso di No, è un palo che volevano fare una stazione per autobus che andavano a Viterbo. Ma guarda, che c'entra Viterbo adesso, Vincino? La stazione per andare a Viterbo, ma chi ce ne, allora, se ne frega gli italiani? Per costruire una cosa in superficie, non sanno, non vadano a quello che c'è. Ah, sotto. Questo è il messaggio che volevi andare a dire. E arrivano. Questo è quello che ci volevi dire. Devastano la Roma archeologica. Per fare la stazione per andare a Viterbo. Salta pure lui. Va bene. Allora, sentite. No, volevo chiedere questa cosa del Debbio. Oggi Libero titola così in apertura. Del Rio ieri è stato pizzicato alle 8:30 del mattino a bussare a casa De Benedetti per una chiacchierata di un'ora. E ha detto: è un imprenditore. Perché Del Rio, che è un uomo renziano, va a casa dell'editore De Benedetti? Ma secondo me perché ne vedono tanti, hanno visto anche lui, io non ci vedo, non so, a meno che non ci sia qualcosa per questioni di energia, roba del genere, però non saprei francamente. Ma non lo so, però Libero... Mi sembra un po' imprudente. È un po' imprudente perché Libero dice, ma come vai a bussare a casa sua, che fai, gli porti i cornetti caldi? Al limite De Benedetti chiederà udienza alla presidenza del Consiglio. Diciamo una caduta di stile. Poi insomma in questi casi... Del Rio, sì, dimmi Vincino. Ma poi no, per Del Rio no, se glielo manda a Renzi sì, ma per Del Rio può andare dove vuole, non è che, come dire... Ho capito, ma è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Vabbè, ma quello là, quello, come dire, è il capo di tutto, è spesso... Ho capito, ma chieda un appuntamento a Palazzo Chigi, chieda un appuntamento a Palazzo Chigi, ufficiale, formale. Ma voi, cioè, questi formalismi erano all'epoca precedente. Vabbè, adesso c'è Renzi, ma c'è Renzi, è un'altra storia. Insomma, si corre, turbo Renzi. Va bene, mi devo fermare qui, ringrazio Paolo Del Debbio, che ritroveremo ovviamente a settembre con Quinta Colonna, ripartirà la grande. Saluto anche Vincino, comprate il suo, com'è? La Cavalcata. La cavalcata di Renzi, 4,90, caro editore che è il il migliore? Il migliore editore al mondo. Carta stampata al mondo. Sì, insomma, al mondo, nel, sì. Pianeta nostro, sì. Del mondo, sì, almeno del mondo. Grazie, alla prossima. Uno, due, tre. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Forza, le 7:18 minuti, forza, mi verrebbe da dire lo schema Allegri a palla, dai, cari italiani, quanto mi fa ridere questa vicenda, rido da due giorni. La Juventus vincerà i prossimi 10 scudetti consecutivi e anche le prossime 4 Champions League, ma per ora rido come un matto. Questa vicenda mi rallegra. A Massimiliano Allegri, la Juventus, lo schema dai, lo schema Allegri torna più furioso e più imperioso che mai. Allora, cari italiani, 7:19 minuti, oggi parleremo un po' di varie cose, costi della politica, tornerà con noi il professor Riccardo Puglisi, colui che qui a 24 mattino aveva detto: io ho scritto un rapporto insieme ad altre persone per lo Stato, per il governo, per il commissario Cottarelli, rapporto dove spieghiamo come si possono tagliare i costi della politica. Questo rapporto è sparito. La denuncia anche due giorni fa dello stesso Puglisi sul Corriere della Sera, ora questo rapporto è stato tirato fuori, vi spiegheremo come si possono concretamente, con proposte elaborate da studiosi, ridurre i costi della politica. Si fa? Non si fa? Chi lo sa? E poi parleremo anche di questa legge che è stata incagliata per togliere l'obbligo di dare il nome ai figli, il cognome ai figli, il cognome del padre. Era la possibilità di scegliere se prendere il cognome del padre o mettere il cognome della madre ai figli, ma invece questa legge è stata rinviata per non creare problemi, perché ci sono già problemi con le riforme tra maggioranza e opposizione. Arrabbiatissima la relatrice Michela Marzano, onorevole del Partito Democratico, che sarà ai nostri microfoni alle 9:05. Ora andiamo a sfogliare i quotidiani che troviamo in edicola. In questo giovedì 17 luglio, intanto i titoli di Sole 24 Ore, apre così: l'ingorgo alle Camere mette a rischio le riforme. Ingorgo alle Camere. Poi la questione europea, caso italiano al vertice europeo, il Corriere della Sera. Il PSE dice sì alla Mogherini, ma è stallo sulle nomine europee per Repubblica. Nomine europee, non c'è intesa, anche la Stampa, così il Messaggero, scontro sulle nomine, paralisi europea. Mentre chi sceglie la politica internazionale, l'unità con il sangue dei bambini, l'uccisione di 4 bambini da parte degli israeliani, stavano giocando sulla spiaggia nella striscia di Gaza. Questi alcuni dei titoli, altri li vedremo in corso di rassegna stampa. Intanto, come detto, i costi della politica, avevamo il professor Puglisi, e oggi Sergio Rizzo ritorna su questo rapporto che per mesi è stato tenuto nascosto. Lo stesso professor Puglisi diceva: ma perché? Visto che ci sono delle proposte concrete, eccolo qui, costi della politica, ecco il rapporto, i tagli possibili dalla RAI ai vitalizi. Per esempio, la RAI, scrive Rizza, ogni cambio di governo cambiano 3-4 redattori, direttori, vice direttori, capi redattori. Il risultato: dei 113 giornalisti al TG1, appena 32 erano redattori ordinari, mentre 34 i capi redattori. Tanto per far capire il rapporto tra soldati semplici e graduati, 1 a 2,5. Ma non è solo la RAI, c'è la questione per esempio delle regioni, perché non applicare la riduzione del 20% di consiglieri assessori, che oggi sono 139.000, oppure eliminare il trattamento di fine rapporto per sindaci, il taglio tra il 10 e il 20% delle remunerazioni per il personale politico nei municipi al di sotto dei 15.000 abitanti, accorpare i piccoli comuni. 330 milioni si potrebbero risparmiare dall'applicazione dei costi standard agli apparati politici regionali. Tutte proposte concrete che il professor Puglisi, insieme ad altri studiosi in questa commissione presieduta da Massimiliano Bordignon, avevano fatto per lo Stato e che sono state tenute e sono tenute fino a questo momento nel cassetto. Questa forse è la cosa che fa più rabbia, non tanto che non ci siano le proposte, ma che magari vengono anche indicati dei professori che fanno delle proposte, le proposte vengono fatte e poi niente. Comunque ne parleremo alle 8.15. Torna invece in primo piano la Calabria per vicende di 'ndrangheta legate alla Chiesa. E oggi sia Repubblica che l'Unità dedicano una pagina a questa vicenda. Titolo della Repubblica, pagina 21, mentì ai giudici per salvare il boss, parroco festeggiato coi fuochi d'artificio. Succede a Reggio Calabria, caroselli in strada per l'assoluzione di Don Nuccio Cannizzaro. Tutti felici perché dicono giustizia è fatta, fuochi d'artificio ieri, racconta Giuseppe Baldessarro. Anche se si tratta di una prescrizione, non proprio di una soluzione piena, comunque il quartiere non si è risparmiato per manifestare apertamente il suo entusiasmo. Il parroco era stato portato a giudizio perché aveva favorito, secondo l'accusa, Santo Crucitti, presunto boss della periferia nord di Reggio Calabria. Condannato per reati minori a 4 anni di reclusione, Don Nuccio, ma comunque immediatamente scarcerato vista l'assoluzione per il reato associativo. Era stato accusato di associazione esterna alla mafia. Una sentenza che ha chiuso una lunga fase dibattimentale. Don Nuccio era finito nel calderone perché durante un precedente procedimento contro Crucitti aveva reso delle dichiarazioni in difesa dell'imputato principale, ma poi intercettato aveva ammesso in intercettazioni di aver fatto un favore allo stesso Crucitti. Tra l'altro il parroco era stato tirato in ballo da Tiberio Bentivoglio, commerciante, testimone di giustizia, che aveva descritto una serie di episodi di danneggiamenti e minacce che lo avevano visto protagonista del processo. Dice il procuratore Federico Cafiero De Rao, amareggiato, le cose col tempo cambieranno. Così l'aggiunto Nicola Gratteri, che è spesso nostro ospite, dice anche lui la strada è ancora lunga, mentre il componente della commissione antimafia Davide Mattiello paragona la vergogna dei fuochi d'artifici per Don Cannizzaro all'inchino della Madonna di Oppido Mamertino. Episodio quello dell'Oppido che ha lasciato il segno avendo anche conseguenze. Anche l'Unità si concentra su questa vicenda. Reggio, il prete è prescritto e il paese festeggia coi fuochi. Don Nuccio Cannizzaro era la sbarra con l'accusa di collusione con i clan. E vabbè, torna questa vicenda. Mentre due notizie di cronaca mi hanno incuriosito, le voglio leggere prima della pubblicità. La prima riguarda una odissea vera e propria di un signore ambulante. Per la verità non è la prima volta che questa vicenda affiora sui giornali. Martino Scialpi si chiama. Pensate che era disoccupato 33 anni fa quando fece 13 al Totocalcio. Racconta Agostino Gramigna sul Corriere della Sera, pagina 21, era il 1981. Grazie a un gol di Falcao con la Roma che batté la Juventus a Roma, fece 13. Eppure il CONI, lo Stato, non lo ha mai pagato. Prima l'accusa di avere falsificato la schedina. Poi in realtà tutto nacque perché quando si presentò al CONI a Bari, al CONI dissero non abbiamo mai ricevuto la sua vincita, la sua matrice, qua non c'è la sua schedina. Quindi lui prima va dalla tabaccaia dove ha giocato, che lo denuncia per molestie, lui viene assolto dalla denuncia per molestie, una perizia poi dice che lui non ha falsificato la schedina è vera, assolutamente vera. Risultato: 33 anni e ancora non gli hanno riconosciuto la vincita. 1 miliardo di lire del tempo. E lui parla al Corriere, dice: non ho ancora l'età della pensione, ho 61 anni, non lavoro, vivo grazie all'aiuto di alcuni amici. Ho collezionato in 33 anni 31 processi, molto più di quelli di Berlusconi, ironizza. Forse a settembre ci sarà la parola fine. Un giudice dovrà stabilire se la somma accantonata nella BNL di Roma, cioè 3,9 milioni di euro a favore di Scialpi, per ora congelati, potranno finire sul suo conto corrente. E poi un'altra storia che mi ha incuriosito viene da Forte dei Marmi. Sapete che spesso c'è l'attacco, l'accusa, le critiche per i troppi ambulanti sulle spiagge. Oggi il Messaggero racconta con Veronica Cursi la storia di Mosè, ambulante del Burkina Faso, ambulante regolare da 25 anni, dice: sono arrivato in Italia nel 1988, ho una licenza d'ambulante, un'attività commerciale registrata regolarmente, nessuna contraffazione, tutte le mie cose sono artigianali fatte dalla mia famiglia in Burkina Faso e poi vendute al mare. E a un certo punto, immortalato anche dalla foto del Messaggero, spunta per il pagamento il POS. Il bancomat ambulante, spunta il POS in spiaggia. E racconta al Messaggero: gli artigiani sono in ritardo, ne abbiamo parlato anche in questa trasmissione, è vero, ci sono tante tasse, adesso non apriamo la polemica che già conosciamo, ma molti commercianti in ritardo, e invece questo ambulante effettivamente fa un po' specie vedere la foto sul Messaggero che lo ritrae col POS per pagare col bancomat nella sua dopo aver acquistato un po' della sua mercanzia venduta a Forte dei Marmi. Questa storia la trovate sul Messaggero a pagina 16. Vabbè, tuffiamoci nella pubblicità, che poi dopo dobbiamo occuparci di cose molto molto pregnanti che interessano tutti voi che state facendo a colazione, per esempio il mercanteggiamento di poltrone all'interno dell'Unione Europea. Alessandro Milan con la sua sexy voce ti sveglio ogni mattina. Vabbè, un attimo di autoglorificazione. È così, caro Peter Bescapè, tu che conti le ore ormai che ti separano dalle vacanze, eh? 2 giorni, domani l'ultimo giorno. E vabbè, insomma. Ma che ti frega te se Renzi dice di fare poche vacanze, eh? Allora, in Europa la situazione si complica, non è tutto così facile e lineare come in Italia, per la verità neanche in Italia è molto, molto semplice, però in Europa la questione di Federica Mogherini, nostro ministro degli esteri, che Renzi vuole mettere come candidata unica al ruolo di PESC, no? Si chiama così, l'alto commissario per la politica estera europea, insomma il ministro degli esteri dell'Europa. Un ruolo che spetta all'Italia secondo gli accordi, però non c'è accordo invece. In Europa tutto slitta, l'Europa si spacca sulle nomine, così titola pagina 5 il Sole 24 Ore con Emilia Patta e Beda Romano, due firme che raccontano una della politica interna italiana, uno della politica europea, per dire come l'intreccio riguarda appunto queste due vicende. Raccontano come non si sia trovato un accordo, nonostante tutti dicano sì, è vero, spetta al Partito Socialista Europeo esprimere quel ruolo, e secondo gli accordi Renzi dice spetta all'Italia, ma spuntava anche ieri l'ipotesi Massimo D'Alema, anche se racconto oggi il Sole 24 Ore, non è l'opzione Renzi, è una possibile soluzione di compromesso, ma sembra più avere l'obiettivo, il nome di D'Alema, di piegare le resistenze verso Mogherini. Che messa così non è un grande complimento ad D'Alema, come dire: guardate che siccome spetta l'Italia, se non accettate la Mogherini vi piazziamo lì Massimo D'Alema. Quasi una minaccia, a meno secondo quanto racconta il Sole 24 Ore, da parte del governo italiano. Qualcuno parlava dell'idea di Enrico Letta al Consiglio d'Europa, che quindi in qualche modo compensasse la mancanza di una nomina di Federica Mogherini, ma Renzi tiene duro, dice sia Repubblica, sia il Corriere, sia la Stampa, c'è solo Federica Mogherini, non c'è un piano B. Eccolo qui, pagina 3 del Corriere, c'è un solo nome, Mogherini, la partita senza fretta di Renzi. Maria Teresa Meli racconta: non ci sono altri nomi oltre quello. Gli accordi vanno rispettati, va rispettata l'Italia, che è un paese fondatore dell'Unione, e il PD, che all'elezione europea ha preso il 40,8%. C'è solo Mogherini. Secondo questa retroscena del Corriere della Sera, Renzi su D'Alema avrebbe detto, è una voce che ha ripreso a circolare da una manciata di giorni a Bruxelles, ma credo sia ripresa a circolare per giochi interni agli ex DS, così Renzi e i collaboratori. Ripeto, non è una di quelle cose che appassionerà e animerà le vostre colazioni, mi rendo conto, però il ruolo dell'Italia in Europa passa anche come importanza da questa nomina. C'è da dire che sul Messaggero a pagina 3 c'è un retroscena con Federica Mogherini, che avrebbe detto ai suoi più stretti collaboratori: io sto anche bene qui alla Farnesina, comunque vada sono contenta, sto benissimo, sono felice di fare il ministro degli esteri italiano. L'Italia che conta, che venga riconosciuto il ruolo che ci spetta, questa è la cosa importante. L'accusa è poca esperienza, anche il Wall Street Journal ha detto questo. Forse Federica Mogherini è poco esperta. È La Stampa, per la verità, con Paolo Baroni a pagina 3, che racconta come il Wall Street Journal parli di soluzione non all'altezza per quel che riguarda Federica Mogherini. Comunque, smentite le voci che rilanciavano Letta, smentite in parte anche quelle su D'Alema. Per Renzi c'è solo Federica Mogherini. Si vedrà a questo punto a fine agosto, quando è stato rinviata la prossima scelta di queste nomine al prossimo Consiglio europeo. Intanto, se slitta la nomina di Mogherini, slitta anche il Senato. Va san Dio! Ovviamente il solito passettino. Ieri si è registrato il passettino avanti, indietro, a lato, piroetta, plissé sulle riforme. Sì, piccolo passettino, anzi no, forse tutto incagliato. Ecco, questo è il riassunto della giornata di ieri. Il titolo del Sole 24 Ore: l'ingorgo alle Camere mette a rischio le riforme. C'è un ingorgo vero e proprio analizzato a pagina 2 e 3 nell'articolo di Roberto Turno. Dalla pubblica amministrazione alla competitività, ora a rischio è del governo di subire l'ingorgo parlamentare, anche perché sul Senato peraltro ci sono 7.830 emendamenti alla riforma della Costituzione. Eccolo qua anche pagina 4 del Corriere: riforme, è già rischio ingorgo. L'opposizione cosa teme? La ghigliottina, sapete, è quello strumento che in passato in Parlamento ha dato adito a grandi proteste. Il rischio è che per chiudere il dibattito in fretta si ricorra alla ghigliottina, quello strumento in possesso di Presidente di Camera e Senato per chiudere il dibattito e passare alle votazioni. Sta di fatto che il rischio voto ad agosto, titola al Sole 24 Ore con Barbara Fiammeri, cioè nuovo Senato, il rischio che si slitti ad agosto. E questa è anche per il Messaggero la rabbia di Matteo Renzi, che vede, come dire, quelli che lui definisce i frenatori, vede questo incagliamento, vede questo tentativo in qualche modo di rallentare tutto, che è tutto ciò contro cui lui vuole combattere. L'ultima paura di Palazzo Chigi, anche a retroscena di Goffredo De Marchis a pagina 6, il via libera rinviato a settembre, quindi manco siamo ad agosto secondo il Sole, ma già a settembre. Ecco perché Renzi ha invocato due giorni fa: facciamo poche ferie, mi raccomando, imbullonando tutti i senatori e i deputati agli scranni del Parlamento. Comunque il ministro Maria Elena Boschi racconta Repubblica: non si sbilancia, valutiamo giorno per giorno la strada migliore, ma la rabbia di Renzi, che voleva approvare entro agosto e tutto per presentarci in Europa con le riforme fatte, spiega Renzi ai suoi, significa dunque rispondere alla domanda che lì si fanno, che lì ti fanno tutti: il vostro paese è ancora riformabile? Per questo mi cadono le braccia quando vedo i dissidenti del PD che in assemblea non parlano e non votano. Così Matteo Renzi. Dissidente anche in Forza Italia, il senatore D'Anna, al suo quarto d'ora di gloria, dopo il vaffanculo brutale, scusate, ma questo è che gli ha rifilato Silvio Berlusconi nella assemblea di Forza Italia. Silvio Berlusconi così ha detto al senatore D'Anna, che oggi fa ben tre interviste al Corriere, a Repubblica, al Fatto Quotidiano, per dire che, scusate, al Corriere, al Fatto Quotidiano e all'Unità, per dire che sì, effettivamente Berlusconi mi ha proprio mandato a... Sono dispiaciuto, contrito, amareggiato, questa è l'eutanasia di Forza Italia, affida queste parole al Corriere della Sera. E poi al Fatto Quotidiano dice: sì, il vaffa di Silvio è vero, ma non l'ha detto solo a me, l'ha detto al plurale. C'eravamo io, Capezzone, Minzolini e la Bonfrisco, e ha detto: mandate a fare in culo. Ecco. E comunque giura al Fatto: io sta fetenzia di riforma non la voto. A proposito di riforma, Mauro Meazza, buongiorno. Temevi. Buongiorno. Non so, veramente non sapevo più cosa augurarmi. Temevi. La revoca delle ferie. Sì. La fetenzia. Sì, no, vedi che... Sembrava. Oppure anche il saluto, il cordiale saluto di Berlusconi dall'ex premier, esatto, eccetera. Una forma di cordiale saluto indirizzata ai suoi iscritti, che mi sembra stiano reagendo bene, no? Quindi hai già rinunciato alle ferie. Io non ho già rinunciato, so che però sul Sole, come scrivete, come ho detto, c'è un ingorgone, il mega trafficone. Esatto, c'è adesso non voglio dire la parola perché sennò poi parte subito l'informazione. Appena sulla dici la parola, Peter Pescapè, si lancia. So che è automatico, Peter schiaccia subito e manda le informazioni sulla viabilità. No, ancora un momento, perché sì, è così. D'altra parte qui siamo indietro col programma, caro Alessandro. Qui 874 provvedimenti attuativi, ce ne mancano 509, siamo un po' indietro. Anche tu dovresti fare un bel gesto e rinunciare alle tue ferie. Ma io, come ho detto prima, non ho fatto decreti, non ho decreti attuativi da firmare, quindi vado serenamente. Ma tu hai una responsabilità nei confronti degli ascoltatori, caro Alessandro, non puoi permetterti di lasciare proprio, immagina che vengano varati centinaia di decreti tutti d'un colpo, che si fa, come li raccontiamo? Non lo so, c'è chi è in ferie due mesi, quindi non dico altro. Vabbè, non restiamo su queste vie, perché ci sono ne raccontiamo un'altra oggi sul Sole 24 Ore, dei movimenti interessanti dal punto di vista industriale e finanziario nel settore dolci. Oggi c'è una appunto anticipazione su un'acquisizione della Ferrero in Turchia, importanti produttori di nocciole, e appunto un'acquisizione che in qualche modo mostra che non sono sempre gli stranieri che vengono a comprare da noi, ogni tanto anche noi, come dire, compriamo aziende all'estero. La Nutella resta italiana, sì, certo. Però la nocciola, con le nocciole, Le nocciole si trovano un po' dove ci sono. E poi c'era già stato anche ieri, lo raccontavamo ieri, la mossa di Lindt, che è stata di Russell Stover, cioè che è una colosso del dolciario americano, su Lindt. Quindi c'è un po' di movimento sul settore dei dolciumi a livello proprio mondiale. E poi adesso, oggi raccontiamo anche in finanza, ma te lo lascerò leggere con calma, dell'acquisizione di G-Tech, che poi sarebbe l'ottomatica negli Stati Uniti. Quindi vedi come tutto i dolci, si muove, giochi, si muove, esatto. E i circenses si muovono. E ci arrivo perché infatti oggi presentiamo i risultati degli spettacoli, così come comunicati dalla SIAE. Bisogna uscire un po' di più. Qui si va solo a vedere ogni tanto i cantanti, e mica sempre, e poco al teatro, poco, insomma, cala tutto nel 2013, tutto. Purtroppo. Però arriva, ho letto sul Sole, il film di Checco Zalone nel 2015. Alla arriva fine. Un nuovo film che sei stato scritturato in qualche modo. No, però lo attendo, mi fa ridere. No, va bene, allora sì, ma anche io sono un grande, poi porta, un grande fan di Checco Zalone. Porta anche grande indotto all'economia del cinema, anzi. Sì, devo dire che il cinema in effetti, stando ai risultati SIAE che presentiamo oggi, appunto Marco Mera li presenta sul Sole, è stata una voce, diciamo, moderatamente positiva. Poi, se guardi le pagine di Casa 24, come ogni giovedì, a parte un servizio sui sistemi di allarme, i sistemi anti-intrusione per tutelarsi, insomma, da visite indesiderate, specialmente in questo periodo estivo, scoprirai anche che c'è una lievissima riduzione delle sofferenze su mutui, cioè siamo diventati un pochino più virtuosi, paghiamo, sì. Si tratta di uno zero virgola, per carità, però un po' più virtuosi. Anche uno zero virgola di questi tempi, come dire, può servire. Senti Mauro, io prima di chiudere però ti voglio dire questa cosa, ma non ti fa riderissimo questa vicenda di Allegri alla Juve? No, ma io ho detto, guarda, vinceranno i 10 scudetti, i prossimi 10 scudetti, ma per ora c'è un gran ridere che mi fa questa vicenda, mi mette di buon umore, no? A te no? Ma io sto alla finestra, come dire, non mi asterrei dal giudicare. Ma no, ma così la vicenda in sé, Pirlo, Allegri, gli sfottò il gol di Muntari, adesso io non so. Così. Ebbene sì, io chiedo scusa ai miei amici juventini, io ho anche dei collaboratori juventini lì al giornale, non posso espormi troppo, però ti assicuro. Fa un po' ridere. È tutto molto ridicolo. Non siamo sempre noi alla fine esatto. A fare qualche gesto così un po' avventato a finire noi nel tritacarne dei media. Ce l'hai con gli interisti noi. Beh, un po' anche con voi, non è che abbiate brillato, caro Milan, per capacità gestionali societarie. Però insomma, lasciamo stare. Dai. Vabbè, dai. Chiudiamo serenamente qui. Sì. E adesso sì, posso dire la parola vietata. Prima, sì. No? Allora dico, traffico! La carta costa e io pago. Allora, c'è invece un rinvio della legge sul doppio cognome. A sorpresa, il voto sulla norma che abolisce l'obbligo di trasmettere il cognome paterno è stato rinviato. La relatrice Michela Marzano si è molto arrabbiata con il proprio partito, anche dicendo: sono stata abbandonata dagli uomini del mio partito. Perché è stato accantonato? Perché su questa vicenda considerata marginale da molti si rischiava di andare a creare dei pasticci e tensioni con Forza Italia, e in questo momento di approvazione delle riforme, di iter di approvazione, era l'ultima cosa da fare. Michela Marzano si arrabbia, sarà ai nostri microfoni alle 9.05 a dire marginale questa vicenda, e anche da questa vicenda che passa la battaglia per la parità di genere. Mentre un'altra vicenda che ha fatto arrabbiare Libero, tanto che il titolo di prima pagina è questo, è perché ieri il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Graziano Del Rio, come ha testimoniato la trasmissione di La 7 in onda, è andato alle 8.30 del mattino a casa dell'ingegner De Benedetti. Governo in ginocchio a casa De Benedetti. Beccati, scrive Libero. Del Rio alle 8.30 del mattino va in visita all'ingegnere. Vado a sentire il polso del paese, dice lui. Ma Libero si arrabbia, dicendo: di cosa hanno parlato? Di Repubblica? Del PD? Di Silvio? Dei debiti Sorgenia? È un gesto dignitoso andare il sottosegretario a casa di De Benedetti, e magari non il contrario, cioè De Benedetti che chiede di essere ricevuto a Palazzo Chigi. Questo racconta Libero a pagina 8. Mentre segnalo che slitta ancora al 22 il provvedimento sulla richiesta d'arresto per Galan, il voto finale il 22, Galan è ancora in ospedale di 5 giorni, gli avvocati dicono tra 5 giorni sarà ancora così, a 40 giorni di piede in trazione dopo la frattura tibia e perone. La Boldrini invece dice il 22 sia l'ultimo rinvio, il 22 si decida, staremo a vedere il 22 e tra 5 giorni. Gli esteri invece sono tutti concentrati sul terribile accadimento di ieri, con un missile che è stato sparato da Israele ed ha colpito la spiaggia della striscia di Gaza, dove sono stati uccisi 4 bambini, 4 cugini che erano andati a giocare al mare e stavano giocando a palla sulla spiaggia. Ahmed Zakaria, 10 anni, Mohammed, 11, Ismail, 9. Il missile c'entra in spiaggia i bambini che giocavano a palla. Questo è il titolo del Corriere della Sera, ma ovviamente il racconto e i resoconti della tragedia sono tutti simili su tutti i giornali. C'è anche un commento di Claudio Magris in prima pagina del Corriere. Orrore senza fine, scrive Magris, la morte orribile, straziante dei 4 bambini palestinesi intenti a giocare o aiutare i padri pescatori a gettare le reti, non tollera alcuna effusione sentimentale che dinanzi alla terribile realtà suonerebbe retorica, anche se sentita profondamente. e ancora continua Magris, è ovvio un dovere dinanzi a questa realtà gridare che la guerra deve finire, ma la morte cesserà di essere la regina in quelle terre, non certo soltanto se esprimiamo il nostro sdegno per un crimine o un altro, il nostro lutto per vite come queste e tante altre stroncate in un'assoluta assurdità. La morte di qualsiasi bambino sotto qualsiasi bomba è un momento in cui la vita, la storia, il potere politico mostrano il volto più imbecille e sanguinoso. Ma tutto ciò potrà cessare in quei paesi solo se i contendenti saranno capaci di risolvere realmente il loro conflitto, di rimuovere ed eliminare le cause oggettive che portano inevitabilmente all'orrore, oppure se nel gioco della politica mondiale si riuscirà a imporre loro la pace, una pace reale. Entrambe le ipotesi appaiono altamente improbabili ed è invece tragicamente probabile che ci attendano altre catastrofi umane. Così Claudio Magris in prima pagina del Corriere della Sera, davvero questi resoconti di questa uccisione di quattro bambini sono resoconti terribili. Vi segnalo due pagine di Repubblica su a rischio email e telefonate degli italiani. Secondo una denuncia del Garante per la Privacy, ci sono gravi criticità nel sistema che gestisce le telecomunicazioni, i livelli di sicurezza e quindi sono inadeguati, per cui sono minacciati i diritti dei cittadini. La vulgata del siamo tutti spiati spunta anche con la minaccia del Garante della Privacy. Oh, fatemi concentrare sul titolo della Gazzetta dello Sport, oggi lo devo fare, insomma io l'ho detto da un paio di giorni, sorrido, ma dai, sto un po' esagerando, però questa vicenda di Allegri alla Juve, le contestazioni, mi fa un pochino, mi fa tornare il buon umore, le tre sfide di Allegri, soprattutto guardate che è successo il dramma della fidanzata di Allegri, sono andati a riprendere dei tweet vecchi della fidanzata di Allegri che quando il Milan si combatteva lo scudetto, quello poi rubato, il gol di Montari, sappiamo quel gol, quello scudetto lì, scriveva, non so, che vergogna la Juve, beh, scriveva anche apprezzamenti tipo Juve merda, cioè nel senso molto molto duri, ieri ha dovuto cancellarsi da Twitter. Da Twitter la fidanzata di Allegri, tanto che a questa è dedicata la maca di Michele Serra. Michele Serra, sapete che su Repubblica scrive ogni tanto del perché è contro questa tecnologia, questi social, è contro Twitter, ed eccolo qui Michele Serra. D'ora in poi, quando qualcuno mi chiederà per la miliardesima volta perché non twitto, risponderò soltanto Gloria Patrizzi. È la fidanzata dell'allenatore della Juve Allegri. Un paio d'anni fa, da milanista, la signorina twittò un paio di cosacce contro la Juve. Tutto ciò che di futile e di veniale abbiamo da dire, cioè tantissimo, non appena assume forma webbica, lascia un'indelebile scia elettronica alle nostre spalle. Abbiamo un bel fuggire come i gatti quando i ragazzacci li attaccano i barattoli alla coda. Di quei barattoli non ci libereremo mai. Penso dunque all'immane babele di minchiate che ho detto in vita solo per pochi e fidati testimoni e fremo di felicità al pensiero che non ne rimarrà neppure l'eco più remota. È così, insomma, problemi anche per la fidanzata di Allegri e gli apprezzamenti sulla Juve. La carta costa in chiusura a Vittorio Sabadin, alla Stampa, ha un'intera pagina dedicata a questo tema fondamentale che spacca in due le coscienze, romantico o no, appuntamento, non ti capisco più, l'appuntamento, una pagina sull'appuntamento tra i due innamorati. 24 mattino. Alle 8:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, un mesetto fa circa invitai il professor Riccardo Puglisi per parlare di come ridurre i costi della politica. E ricordo che il professor Puglisi ci raccontò di come avesse fatto parte di una commissione di studiosi, economisti per lo più, ma non solo, e di come avessero stilato un rapporto di circa 100 pagine con proposte concrete su come falcidiare queste spese. Un rapporto che però è rimasto inspiegabilmente nei cassetti del governo fino a qualche ora fa. Professor Puglisi, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno agli spettatori. Allora, intanto due giorni fa lei ha preso carta e penna, ha scritto al Corriere della Sera dicendo: ma com'è che io ho fatto parte di un rapporto, di una commissione, abbiamo fatto delle proposte concrete per tagliare i costi della politica e il governo, o comunque non so chi ce l'aveva nel cassetto, non lo tirava fuori. Ecco, sono contento che è spuntato, sono contento di sapere che il Corriere della Sera, e lo sapevo già, è più influente di 24 Mattino e ce l'ha fatta. È uscito. Alleluia. Okay. Mi dà un'ottima notizia. No, va bene, nel senso, è uscito oggi il Corriere della Sera. Il governo ha deciso di rendere pubblico il documento commissionato da Cottarelli. È il suo? Giusto per capire? No, perché... L'idea è la seguente: che in realtà non c'è un documento di Cottarelli, nel senso che Cottarelli, dato che la materia dei tagli, dei costi, dei costi pubblici, quindi delle spese pubbliche, è una materia grossa, in realtà non esiste soltanto il gruppo di lavoro capitanato da Bordignoni in cui c'ero io, ma ce n'erano altri 24. E quindi l'idea è che noi, la cosa che ho pensato è che noi, e poi ce n'erano altri, quindi come si dice, se verrà messo fuori soltanto il nostro, che è oppure tutti notizia, 25 oppure tutti 25 tutti quanti intanto perché, professore, mi faccia capire, c'è il cellulare che fa un po' le bizze, la sentiamo o non la sentiamo? Cerchiamo adesso di migliorare. Il fatto che sia stato tenuto nascosto per qualche mese rientra un po' in quella palude a cui Renzi fa spesso riferimento, secondo lei? In realtà chi decide queste cose è il governo in carica, nel senso che il rapporto fu commissionato dal governo Letta e dopodiché arriva, chiaramente ci si impiega un po' di tempo per fare queste cose e poi venne consegnato a questo punto al governo Renzi, perché ci fu il passaggio dal vecchio governo al nuovo governo, quindi sinceramente mi viene difficile pensare che sia qualcun altro dal governo che abbia deciso di tenerlo nel cassetto. Qualcuno l'aveva. Il governo, insomma, ha voluto tenere nel cassetto. Però allora veniamo ad alcune delle proposte che sono contenute in questo rapporto. Che ripeto, ora il governo, anche sotto la spinta del suo appello pubblico sul Corriere della Sera, ha deciso evidentemente di rendere noto. Voi vi concentrate soprattutto o in parte sulle regioni. Per esempio, per entrare nel concreto, voi proponete 330 milioni di possibili risparmi applicando i costi standard agli apparati politici regionali. Che vuol dire? Ma vuol dire sostanzialmente questo, che non si capisce bene, questa però è una notazione generale, cioè non si capisce bene perché istituzioni che fanno cose simili debbano avere dei costi diversi da posto a posto, cioè da regione a regione. Non si capisce perché, cioè non si capisce perché ci siano regioni più virtuose di altre sul tema dei costi. Qual è la più virtuosa che voi avete osservato per la quale applicare i costi standard? Per esempio alcune regioni, per esempio la Lombardia è una regione abbastanza virtuosa, però a parte le singole regioni, l'idea è che uno dovrebbe rapportarsi alla migliore. Cioè quella che spende di meno. Certo, stabilire dei costi standard e adeguarsi a questo. Ecco, mi ha molto colpito per esempio una frase nel rapporto, e questo mi permette anche di introdurre l'ospite che già ci sta ascoltando. Ieri ho letto questa frase: in una regione come il Molise non avrebbe senso di esistere. Che vuol dire? È una frase brutale. L'idea è questa, l'idea è che evidentemente tutte le volte che si parla di cose da tagliare non è che necessariamente si usano mezzi termini, perché le cose bisogna dirle come stanno. L'idea è questa, che mettere insieme una regione, ok, ha quelli che si chiamano costi fissi, cioè sono costi che ci sono a prescindere da quanti abitanti la tale regione ha. È chiaro, l'istituzione, i palazzi, i consigli. Esattamente. Politica. E la cosa tra l'altro vale ancora di più, quindi spostando il discorso non solo a questo caso specifico della regione Molise, vale anche per i comuni, perché se i comuni sono piccoli comunque ci sono dei costi di segretario comunale eccetera, eccetera, certo, di apparato per ogni comune, quindi sono ancora più. E perché più il Molise non ha senso di, non ha ragione di esistere, cioè in base ai costi? Adesso non voglio entrare nello specifico del rapporto, adesso se poi i cittadini potranno leggerlo, tanto di guadagnato per tutti, penso. E l'idea è la seguente, che è una regione molto piccola, misura e quindi i costi per abitanti fissi sono molto grossi. Quindi se uno vuole ragionare sul fatto che quanto costa per cittadino, che è l'unico discorso sensato che si può fare, talmente piccola che i costi fissi fanno aumentare la spesa. La matematica per da questo punto di vista non è un'opinione, cioè non sto dicendo che l'economia sia matematica, ma diciamo che è una parte importante di matematica. Di matematica. Allora, professor Puglisi, visto che ci ascolta, e non so se ci ha ascoltato in questa parte finale del discorso con grande soddisfazione, il governatore del Molise Paolo Di Laura Frattura. Buongiorno presidente, eccoci qua. Sì, buongiorno. Insomma, buongiorno. La questione è che applicando i costi standard è una regione così piccola il Molise che avendo dei costi fissi ogni regione è inevitabilmente, se la matematica non è un'opinione, i costi fissi del Molise sono per cittadino molto alti. Non ha ragione economicamente, parlando di esistere. Che ribatte? Economicamente forse ci converrebbe trasformare il paese Italia in un unico comune, probabilmente a quel punto, anzi no, probabilmente sicuramente a quel punto saremmo nelle condizioni di ottimizzare al meglio il costo per cittadino. Io capisco che parlando di parametri esclusivamente matematici non si può che concludere come diceva il professore, sarebbe cosa diversa invece entrare nel merito e nella qualità della spesa, soprattutto prendo appunto da un punto di partenza e capire a distanza di un solo anno che cosa il governo di una regione così piccola sia riuscito a fare ottimizzando il rapporto della spesa per cittadino, partendo dalla spesa chiaramente corrente, tagliando gli sprechi, passando alla razionalizzazione degli enti inutili, la soppressione, la fusione, la riorganizzazione, intervenendo sulle partecipate, intervenendo sull'assetto amministrativo, tagliando rigorosamente in 3 anni, al 31/12/2016, l'assetto dei dipendenti della regione, prevedendo un risparmio di 8,5 milioni, considerando che passeremo da 74 dirigenti a 40 con un taglio. Insomma, lei sta dicendo noi le cose le abbiamo fatte, pur essendo una regione piccola. Prima ancora di leggere il rapporto. No, ma tra l'altro nel rapporto, presidente, c'è un dato invece che viene, se vuole, a favore di regione come il Molise o le Marche, e cioè la media nazionale di spesa per consigliere regionale è superiore ai 900.000 euro, ma in Molise è attorno ai 500.000 euro, quindi almeno questo allora, è un dato. Abbiamo rivotato nel 2013, quindi ci siamo riallineati alla consistenza dei 20 consiglieri regionali per regioni sotto il milione di abitanti e abbiamo un governo regionale composto dal presidente e 4 assessori. Abbiamo allineato sempre al decreto 174, come riconosciuto dal governo, i compensi per i consiglieri regionali, prevedendo la voce onnicomprensiva, e tra le altre cose mi pare di poter dire che siamo la terza regione in termini di virtuosità nei costi per singolo consigliere, ma anche rispetto a questo essere terzi, già all'unanimità dei presidenti dei gruppi consiliari abbiamo deciso nella seduta di martedì in consiglio regionale di allinearci alla regione più virtuosa, proprio per dimostrare che anche essere piccoli non significa comunque essere il brutto anatroccolo. No, ma per carità, invece dico di più, essendo piccoli ci siamo posti il problema di come eventualmente ottimizzare una serie di servizi per garantire la qualità degli stessi a tutti i cittadini. No, ma questo sì, ma il principio del piccolo, professor Puglisi, per carità, non vogliamo fare il brutto anatroccolo al governatore Paolo Di Laura Frattura, ma l'essere piccoli è un concetto di... dopo avremo, tra l'altro, vi pronuncio anche il presidente dell'associazione dei piccoli comuni, perché è un'altra proposta, professore, quella che voi prevedete di accorpare i comuni. L'idea è però, dice il governatore, non è solo matematica, è anche politica o buona politica. Magari siamo piccoli, ma le cose le abbiamo fatte. Ecco. Proviamo ad allineare, chiedo scusa professore, poi mi... Proviamo ad allineare la spesa, ma rispetto alla qualità della stessa. Soltanto così siamo nelle condizioni di ragionare con uno spirito sociale. Quella è l'idea dei costi standard, mi sembra di capire, no, professor Puglisi? Cioè stabilire un costo standard per ogni settore e le regioni si adeguino a quello, no? Questo è il concetto di razionalizzare la spesa. Tra l'altro, per alcuni temi, appunto, c'è anche il decreto che nominava il governatore. L'idea è questa: io non voglio essere becero, però talora gli economisti sono beceri, ma diciamo le tasse ai cittadini cosa sono? Matematica o non sono matematica? A me sembra una matematica. Anche i contribuenti, io ho citato nel pezzo una frase che mi piace molto di Margaret Thatcher, che non esiste il denaro pubblico, esiste soltanto il denaro dei contribuenti. Quindi c'è sempre un interesse che confligge, che è l'interesse della spesa che per certe parti vuole perpetuarsi, e l'interesse dei cittadini che francamente, penso che gli spettatori siano d'accordo con me, sono francamente stufi di pagare un pacco di tasse. Ma per esempio voi, professore, suggerite anche il taglio di assessori a livello sia provinciale, comunale, regionale, cioè taglio di persone che amministrano la politica. Vogliamo dirlo, professore, nel vostro studio avete chiarito che sono non tanto le province, se vogliamo, contro cui ci facciamo tutti una battaglia, cioè, ma le regioni, le regioni e i comuni, lì dove si annidano il maggior numero di denaro, di quantità di denaro, e quindi anche di possibilità. La questione dal punto di vista procedurale è semplice, ha questo di perverso e semplice, che una parte importante dei finanziamenti alle regioni e ai comuni sono cosiddetta finanza derivata, cioè non nel senso che i derivati finanziari, ci sono anche quelli, però purtroppo sono risorse dello Stato centrale, che è il comune che sta su tutta Italia, ecco, che trasferisce regioni, e quindi il livello di responsabilità è degli amministratori locali, mi spiace, ma è più basso perché le risorse vengono dal grande pozzo centrale. Quindi questo crea dei problemi, perché si parla tanto di titolo quinto, riforma, bla bla bla, un po' come slogan. L'idea lì è di quanta la responsabilità sia concorrente, cioè sia delle regioni che dello Stato, ma in generale la maggior parte delle risorse degli enti locali viene dal livello centrale, e questo comporta un po' di deresponsabilizzazione. Cosa vuol dire deresponsabilizzazione? Vuol dire più soldi che escono dalle tasche dei cittadini. Soldi nostri. Allora, professor Puglisi, stia con noi. No, dobbiamo liberare il governatore Paolo Di Laura Frattura, però le chiedo questo prima, Presidente, di lasciarle e ringraziandolo. Per esempio, perché anche voi avete, mi risulta, una sede del Molise a Bruxelles, e anche una a Roma, credo, quanto dista Roma? 2 ore, insomma, di distanza. Certo, ogni tanto si va a Roma alla conferenza delle regioni, ma a Bruxelles, ma perché queste? No. Le dico con chiarezza, sono tutte misure, queste situazioni che abbiamo evidentemente ereditato. La chiuderà? Non solo, le dico che addirittura la Regione Molise si trova ad avere 2 sedi a Roma, ha già attivato le procedure per la vendita di una sede, è stato uno dei primi atti che abbiamo messo in campo come governo appena insediato, e stiamo in attesa della definizione di una serie di contenziosi per procedere. Ma non sarebbe meglio venderle tutte e due? Ma le dico però la verità, la presenza del lavoro su Roma è importante, non è soltanto la presenza fisica dell'amministratore di turno in commissione o in conferenza, ma è una presenza di partenariato stabile nella capitale, quindi le dico la verità, la presenza, soprattutto quando la spesa è ridotta all'osso, grazie alla professionalità dei collaboratori. E quindi anche a Bruxelles, immagino. A Bruxelles abbiamo avviato lo stesso ragionamento, una sede senza contenuti non ha nessuna ragione e motivo di esistere. Stiamo capendo se nel corso del semestre a presidenza italiana saremo nelle condizioni effettivamente di arricchirla di contenuti, oppure anche la sede di Bruxelles sarà alienata. Tenga però presente che in un solo anno abbiamo garantito, nell'ottimizzazione dell'utilizzo delle sedi in Molise della regione, su circa 3 milioni e mezzo, 1 milione di euro di risparmio soltanto di spese di fitto e di gestione degli immobili. Quindi sono temi per i quali, con tutto il rispetto della qualità del lavoro svolto dai tecnici, ci siamo imposti a inizio mandato e abbiamo avviato per dimostrare che anche una piccola regione può farla spendere, possa dare il buon esempio. Noi la ringraziamo e manifestiamo fiducia, insomma, di capire se questa anche sede di Bruxelles, se sarà utile, bene, se no sarà alienata, come dice lei. E le due a Roma, effettivamente, una proprio toglietela, perché due non si può sentire. Lei dice che una invece serve per partenariato. La ringrazio, Paolo Di Laura Frattura, governatore del Molise. Rimane con noi il professor Puglisi, al quale c'è un appello accorato a dire: doveva andare in Parlamento. No, Puglisi, non lo faccia! Non lo faccia! Non lo faccio un appello. Se entra in Parlamento diventa diventa al solito un altro schiacciatore di bottoni. No, non lo fa, non si faccia prendere dalle sirene della politica, che non tanto poi diventa uno dei 600 inutili che schiacciano i bottoni. 24 mattino. Allora, alle 8:40 minuti siamo qui con il professor Riccardo Puglisi, stiamo parlando di questo rapporto. Che quante pagine era, professor Puglisi, questo rapporto? 106, dato che la matematica non è opinione. 106 e tra l'altro, ripeto, è il rapporto di una delle 25 commissioni di studio. Ma voi vi siete concentrati su Italia la politica e le altre 24 su altre cose, oppure? Esattamente. A quanto mi sembra di capire, perché a un certo punto Cottarelli aveva fatto una presentazione con slide, dato che fanno tendenza alle slide, presentando i risultati complessivi, e mi ricordo che nelle altre, quindi le forti informazioni le ho avute come tutti gli altri. Mi ricordo che c'erano delle cose su 80.000 esuberi nella pubblica amministrazione e 3-4 miliardi, se non ricordo male, di tagli delle pensioni che sono usciti rapidamente. Allora, vogliamo fare un appello pubblico al governo di rendere tutti e 25 rapporti di queste 25 commissioni disponibili, perché vogliamo dire una cosa, e questo rapporto che il professor Puglisi ha contribuito a rendere pubblico, diciamolo francamente, è reso pubblico perché lei ne aveva una copia e ha detto e ha scritto sul Corriere della Sera: rendetelo pubblico, ed è stato reso pubblico, e lei ne aveva una copia che si era tenuto, questa è l'altra cosa. Oppure tutti quanti i membri della commissione avevano il loro PDF, bravo, gli accademici avevano il PDF, cioè stava mi faceva tristezza che fosse sul mio computer, sul nostro computer, ma non fosse disponibile per i cittadini. Ma certo, avete lavorato, avete fatto delle proposte che siano rese pubbliche, da discutere, almeno magari a dire sono delle stupidate, no, sono delle cose giuste. Ma il problema è questo, io vedo un problema politico di questo tipo, che è questo: se ci sono delle proposte, perché evidentemente i conti pubblici non sono una cosa così semplice, quindi non è male, è sensato che degli esperti, gli scienziati delle finanze in particolare, li guardino, poi il governo decide cosa fare, perché la decisione ultima è da parte del governo e del Parlamento. Ma se uno non sa cosa c'è dentro i rapporti e non si sa che cosa il governo ha deciso di recepire e cosa no, soprattutto se non lo vuole rendere pubblico il governo, invito i presidenti delle varie 25 commissioni, commissioni di studio, che avranno tutti una copia, forse saranno tenuti come il professor Puglisi, e rendetela pubblica voi. Che devo fare? Rendetela pubblica voi. Comunque, tornando alle questioni concrete, 330 milioni si potrebbero risparmiare applicando i costi standard delle regioni. Poi, giusto per dire alcune delle cose che proponete, 300 milioni e 698 mila euro l'anno si recupererebbero da interventi sulle amministrazioni, per esempio tagliare del 10-20% le remunerazioni al personale politico, tagliare gli assessori, accorpare i piccoli comuni. Allora, fatemi salutare Franca Biglio, presidente dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. E sindaco anche di Marsaglia, in provincia di Cuneo, più volte l'abbiamo spiegato. Dal 1985. Ma chi la toglie da lì? Fiera sostenitrice della necessità di avere ogni comune il suo bel campanile, però anche il suo bel segretario generale, municipio e costi fissi, come dice il professor Puglisi? Segretario generale non esiste. No, segretario comunale, volevo dire, segretario sì. comunale. Biglio, sì. Sono troppi costi fissi, questo è il problema. No. Guardi, manca veramente un serio progetto, uno studio serio sulle spese dei piccoli comuni, non esiste. Esistono invece diverse dichiarazioni dalla parte del Corte dei Conti, del Ministro Giarda, dell'Ufficio Studi del Senato, che accorpare i piccoli comuni non porta alcun risparmio, anzi. Anzi? Anzi. E perché? Dunque, costi fissi, ma io credo, soprattutto temo, che questo modo di operare e di dare informazioni errate sia un modo per allontanare l'attenzione dei cittadini dal vero centro dello spreco, dei veri costi della politica, che non si annida certo nei piccoli comuni. Attenzione, perché questo c'è, cioè, subito è la classica pratica del benaltrismo. Però, allora, andiamo a vedere dove sono gli sprechi. Nella duplicazione degli enti? Sì. Nella duplicazione delle poltrone, che non è certo nei piccoli comuni. Ma certo, nelle regioni, ma il rapporto infatti si concentra anche su regioni, su tante, esatto. Però anche nelle partecipate. Ah, ma certamente le municipalizzate, ecco. Però anche, esatto, nei piccoli comuni. Allora, no, guarda, nei piccoli comuni, allora io faccio dei piccoli esempi, piccolo, no? Ecco, rapportato al piccolo. Nei piccoli comuni si gestisce a livello di volontariato. Intanto ci sono i consiglieri comunali, i famosi assessori che adesso sono stati ripristinati ad invarianza di costo. Un assessore, se ritira la sua indennità, se la ritira, da me non succede e non succede da tanti altri, sì, in tanti altri, sì, piccoli comuni, ammonta la sua identità a 97 euro. Ma no, ma d'accordo, però, ma pensi solo, non so, se c'è due municipi di due comuni che distano a 3 chilometri l'uno dall'altro e che hanno, faccio degli esempi, uno 500 abitanti e uno 600 abitanti, pensi che disagio ci sarebbe nel togliere un municipio dei due? Nessuno, immagino, uno fa 3 chilometri in più, però togliere la struttura, togliere le persone, un municipio avrà dei costi, il riscaldamento, l'IMU, lo vendiamo quel bel municipio, lo vendiamo a un privato, ci fa un bel castello, non è così. Guardi, per risolvere il problema, l'avete già anticipato voi, sì, i costi standard. Ecco. Ecco, allora ditemi perché i costi standard che sono stati commissionati all'IFEL e che sono costati 15 milioni di euro non vengono applicati in modo serio. Mi pare che il Tesoro stia accelerando proprio l'introduzione dei costi. Ma infatti standard. I costi standard, si fermi un attimo, ho il traffico, i costi standard e poi ripartiamo da qui. Dice comunque Franca Biglio, non è questa la soluzione e non si annidano certo lì gli sprechi maggiori. Questo è vero, gli sprechi maggiori, però con questa filosofia non si fa mai niente in Italia. Allora, professor Puglisi, è benaltrista la nostra amica presidente dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani, oppure è una fiera difensora di un diritto, insomma, e anche di dire ma basta concentrarsi sugli sprechi finti? Io sento, cioè, chiaramente ho piacere di dialogare con queste persone, con rappresentanti degli enti locali eccetera, ma sinceramente a me interessa il concetto di rappresentante dei contribuenti. Come ho detto prima, non esiste denaro pubblico, esiste denaro dei contribuenti. Se uno mi dice che c'è il problema 1, cioè una roba che costa troppo, però c'è in realtà il problema, il costo 2 che è ancora più grosso e il costo 3 che è ancora più grosso, mi scusi il termine, mi incazzo, nel senso che c'è 1, 2, 3, si sommano. Sì, però dice che ci sono rapporti diversi, l'ex ministro Giarda eccetera, che dice che invece accorpare i comuni farebbe costare di più. Penso che semplicemente la questione è che se c'è un costo fisso di tenere una persona e avere una duplicazione della stessa cosa, il costo fisso significa che è un costo che c'è, e il costo standard, mi spiace, con i costi fissi non c'entra, cioè c'entra, ma non c'entra così tanto, perché è un costo per il fatto di avere troppi comuni. Se si fa un confronto con altri paesi europei, viene fuori banalmente che il numero di comuni per abitanti in Italia è esorbitante. Non esiste soltanto attenzione, c'è un costo, perché teoricamente c'è il costo standard, si pensa a confronti all'interno dell'Italia, ma nel rapporto, a quanto mi ricordo, come si fanno anche dei confronti internazionali. Sì. C'è una peculiarità italica, ma a me sembra che in questo momento la peculiarità italica siano le tasse alte. No, ma è chiaro, ma io sono una questione. La sono peculiarità una questione italica dei campanili, mi interessa poco, ai contribuenti continua a interessare. No, ma tra l'altro, a proposito di contribuenti, sposo anche quello che mi scrive un ascoltatore a dire: siccome queste commissioni hanno lavorato, io non so se avete avete preso un gettone, un gettone, comunque, come si suol dire, gratis et amore dei, ci sarà stato però, non so, delle spese di viaggio, qualcosa sarà costato, la luce per tenere accesa la luce, nel nostro caso io sono andato, mi sono, ho speso 5 euro per, miei per posteggiare la macchina in cattolica, va bene. E non me la sono fatta rimborsare, non se l'è fatta rimborsare, no, ma questo per dire che se anche ci, anche se ci fosse stato un costo per stampare la carta o produrre le slide di questa cosa, quindi del contribuente, è giusto che sia tutto trasparente. I discorsi sono molto beci. Un'altra volta c'è un discorso di costi-benefici, nel senso, si parla di possibili benefici. Se ci sono dei costi, come dice, del fare la cosa, che evidentemente esistono, ma ripeto, da questa parte non sono stati particolarmente elevati, si giudicano dal punto di vista dell'imprenditore privato. Cioè, ci sono stati dei costi che sono serviti per tagliare sperabilmente i costi della politica o i costi di spesa pubblica di tot, andiamo a vedere quant'è il rendimento di questi soldi, cioè il rendimento di aver risparmiato, che è cosa graditissima, ripeto, al contribuente, che è quello che è rappresentato, che da voi, che paga. Mi sembra il dato No, ma è chiaro, è chiaro. Allora, prima di tornare da Franca Biglio insieme al professor Puglisi, vogliamo sentire invece, visto che si parla di costi standard, un'altra cosa che esce dal rapporto è questa: perché il sindaco di Merano guadagna molto di più del sindaco di Milano, grande città dal punto di vista numerico rispetto a Merano? Avevamo invitato il sindaco di Merano, che però oggi non poteva essere in diretta, ma gentilmente ha risposto a un paio di domande della nostra Elisabetta Fusconi. Il sindaco di Merano, Jan Günther, il suo stipendio quant'è? Attorno a 5.900 euro nette. E lorde significa? Questo non lo so, cioè, a me mi interessano il netto. Quanti abitanti ha Merano? Abbiamo 39.000 abitanti. E lei ritiene che il suo stipendio sia congruo per amministrare un comune con questo numero di abitanti rispetto, per esempio, al sindaco Giuliano Pisapia, che amministra una città di 1.5 milioni di abitanti? Si risponde da solo che non è giusto. Solo che noi ci confrontiamo con le diverse realtà di consiglieri regionali, provinciali o quant'altro. Comunque siete sempre un po' additati come i fortunati d'Italia dal punto di vista degli stipendi. Sì, questo è un dato di fatto. Praticamente questo problema anche nei contenuti di lavoro. Io so solo se si lavora tanto, ci vuole più equità. In una situazione così ovviamente fa notizia. Fa notizia, capito Puglisi? Fa notizia che in Merano, anche qui si potrebbe applicare i costi standard. Però ammette il sindaco di Merano, dice, sì, è vero, siamo i fortunati d'Italia, lì c'è l'autonomia. È una decisione piacevole, sì. Sì, c'è l'autonomia e quindi che dobbiamo fare. Però, Franca Biglio, io e anche il professor Puglisi, molti ascoltatori, non capiamo questa questione del fatto che ridurre alcuni costi, ci saranno dei costi fissi per tenere in piedi un comune piccolo, no? Ci saranno dei costi fissi. Costi fissi è normale, ma c'è anche un territorio da gestire, non si tiene conto del territorio da gestire. Ma certo, ma se un territorio di 500 abitanti è gestito dal comune vicino, si accorpano due comuni da 500 abitanti, allora, l'uno, viene un comune da 1.000 abitanti, non sarà complicato gestire. Per quanto riguarda l'accorpamento, due sono gli strumenti, l'unione o la fusione, c'è un altro strumento, la convenzione, che è quella che noi stiamo applicando di più. Il mio comune, come tutti gli altri, è in convenzione per tutti i servizi. Ok. Tutti quanti i servizi. Per ridurre i costi. Ma questo è una prassi. Però dei costi fissi ci saranno, avrete un consiglio comunale, il vostro comune fianco. Il nostro consiglio comunale è la legge 56 prevede che il consiglio comunale non debba costare più nulla. Ma ho capito, quindi, ma ci sarà la luce, ci sarà, ripeto, il riscaldamento dell'aula, ma del certo Consiglio Comunale, la luce. Ma io non credo che questo sia quello che incide, mi scusi, è perché mi arrabbio. Non è possibile che il riscaldamento di un comune come come il mio, come tanti altri piccoli comuni, incida sulla spesa pubblica. Ma io sono d'accordo, sono d'accordo con lei. Perché altrimenti nel mio comune ci sono 80 chilometri di strade, ci sono nuclei familiari sparsi su tutto un territorio agricolo, collinare, montano, soprattutto la zona montana, e ha bisogno di una gestione continua, perché altrimenti poi i disastri, i dissesti si verifica. Ma non è che se la, ma non è che se vi accorpaste la gestione sarebbe abbandonata, è questa la questione. Comunque io qua mi devo un attimo fermare perché c'è tempo del giornale radio. Professor Puglisi, non ne usciamo più granché vivi, nel senso, ma per carità, cioè, ha ragione a dire che sugli 800 miliardi di spesa pubblica cosa vuole che incida la questione di piccoli comuni? No, questo è un modo di ragionare sbagliato, mi spiace. Anche secondo me, cioè, ha ragione su il contribuente è un po' stufo, questo forse i politici non l'hanno capito, ma diciamo da economista uno vede la pressione fiscale e sente le persone, la gente con 2G, quindi dice, le persone sono stufe, il campanilismo è troppo caro, ecco, detto è troppo caro, va bene dai, fermiamoci qui. Ma ringrazio Franca Biglio, ringrazio il professor Riccardo Puglisi, alla prossima, come dire, e rinnovo l'appello, cari membri di tutte le 25 commissioni, se non rende noto il governo tutti i vostri studi, fatelo voi come ha fatto il professor Puglisi, almeno che noi sappiamo se avete scritto delle cose giuste e ne dibattiamo oppure sbagliate. Dopo il giornale radio invece ripartiremo da che cosa? Lo stop che c'è stato alla legge che avrebbe dovuto essere approvata in pochi giorni, che doveva abolire l'obbligo di trasmettere solo il cognome paterno ai figli. È stata bloccata questa legge, che ne pensate? È una battaglia per favorire, secondo voi invece, l'equiparazione di genere, la possibilità di scegliere se dare il cognome anche della madre ai figli? La relatrice del provvedimento, Michela Marzano del Partito Democratico, è molto arrabbiata anche col suo partito per questo stop, sarà ai nostri microfoni, e se volete intervenire su questo argomento 800 24 00 24 dopo il giornale radio 24 mattino. Sono le 9-8 minuti ancora con Alessandro Milan, siamo in diretta fino alle 9.30 con una puntata di 24 mattino. Di cosa vogliamo parlare? Come accennato, insomma, doveva essere una legge da approvare oggi, doveva essere una legge per cui filava tutto liscio, e invece si è trasformata forse in una battaglia di genere. Titolo oggi del Secolo XIX in prima pagina: i parlamentari maschi boicottano la legge sul doppio cognome. Con questa legge si vuole abolire l'obbligo di trasmettere il cognome paterno ai figli, lasciando liberi i genitori di scegliere tra il cognome del padre e quello della madre. In caso di disaccordo verrebbero assegnati tutti e due i cognomi, ma è stato bloccato tutto per le ire della relatrice, onorevole Michela Marzano del Partito Democratico, che saluto, buongiorno e benvenuta. La danno come molto arrabbiata, onorevole Marzano, è così, è vero? Ma diciamo che è stata una grandissima delusione ieri, perché si sarebbe dovuto approvare molto rapidamente, il testo base in commissione era stato approvato all'unanimità, il mandato al relatore, come si suol dire, e non c'erano praticamente emendamenti, un solo emendamento presentato sul testo in aula. In discussione generale tutto a posto, nel momento in cui si è cominciato a discutere dell'unico emendamento presente si è aperto il vaso di Pandora, nel senso che sono cominciati a intervenire vari colleghi, a cominciare dalla Russa per Alleanza Nazionale, seguito da Pagano del Nuovo Centrodestra, poi Buttiglione per l'Italia e così via. Tutti uomini, tra l'altro lei. Ma lei ne fa una questione di genere, cioè ha visto, perché ci sono due teorie. Allora, un'opposizione sul merito della legge e sulla questione che ha creato una questione di genere, e sul merito invece politico, cioè qualcuno dice, ma in questo momento in cui ci sono delle tensioni sulle riforme, tutto è così delicato sul filo, rischiamo di inimicarci, per dire, Forza Italia che sta tenendo il patto del Nazareno per una cosa, per una legge che non è la legge più importante da fare. Lei che lettura dà? No, guardi, c'è anche un elemento politico, ma non quello che secondo me lei ha detto, nel senso che in realtà se si parla con il rappresentante di Forza Italia, cioè il collega Parisi, che è nel comitato dei nove, Parisi è per l'approvazione della legge e la maggior parte di persone che sono in Forza Italia vogliono approvare questa legge, per cui non è, il problema da questo punto di vista non si pone. Il problema è, da un lato, proprio l'oggetto della legge, nel senso che in molti non concepiscono la possibilità che si metta fine all'automaticità della trasmissione del cognome paterno. Quindi questo perché? Vero... Cioè, questa battaglia lei come la considera? Una battaglia di retroguardia, una battaglia maschilista? Ma secondo me è una battaglia di stupidità e di ignoranza, guarda, io non ho altro modo di definirla, oltre che retaggio culturale atavico di una società che non riesce a smuoversi da una concezione patriarcale. Il problema è che noi non abbiamo la scelta. Cioè, nel gennaio del 2014 siamo stati condannati, noi Italia, dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per violazione del principio di uguaglianza, quindi c'è una condanna pendente sull'Italia. L'Italia deve adeguarsi, ma deve adeguarsi da un lato non tanto perché, e non solo perché l'Italia ce lo chiede, perché l'Europa ce lo chiede, ma perché veramente non possiamo essere sempre gli ultimi della classe anche sulle questioni dei diritti, delle libertà individuali. Cioè, questa legge esiste già in Francia, in Inghilterra, in Spagna, in Germania, e poi noi vogliamo andare in Europa a dettare le leggi quando non siamo nemmeno capaci di approvare una norma di civiltà. Infatti lei ieri ho colto anche, credo in un'intervista di Repubblica, l'abbia detto apertamente, un po' di amarezza anche nei confronti del suo stesso partito, a dire il Partito Democratico, insomma, dovrebbe fare queste battaglie di civiltà, mi ha un po' tradita su questo. Sì, ce l'ha, c'è poi una doppia amarezza, cioè un'amarezza profonda di chi vede, non si sente sostenuta, cioè non sente sostenuto all'interno del Partito Democratico un tipo di battaglie che è tipico poi del centro-sinistra, perché noi non la smettiamo di parlare dell'importanza di questo messaggio, dell'uguaglianza. Tra l'altro è una riforma che non costa economicamente parlando niente. Ma no, ma è chiaro, ma io trovo abbastanza incredibile, cioè mi sembra una cosa talmente banale adeguarsi ai tempi, fare anche le battaglie, se vuole battaglie di genere, con una questione così che mi sembrava banale, no? La possibilità di poter dire facciamo scegliere se mettere i due cognomi oppure il cognome della madre e il cognome del padre. Invece secondo lei esiste ancora questo retaggio patriarcale duro a morire? Non è secondo me, perché anche a me sembrava una cosa banale. Io, guardi, quando ho esordito nella discussione generale di lunedì, ho detto è una norma al tempo stesso evidente, banale e rivoluzionaria. Banale perché esiste dappertutto e rivoluzionaria perché cambia le cose, effettivamente. Cambia le cose profondamente. Allora, quindi io pensavo che in due ore ieri si sarebbe approvata. E invece no. Dopodiché è scoppiato il putiferio e lì non c'è stato il coraggio da parte del Partito Democratico di andare dritti, cioè di dire vabbè, ci saranno i soliti che si oppongono, come si sono opposti al divorzio breve, perché anche in quell'occasione già lì è un po' più controversa, è una misura un po' più delicata forse quella, è vero, no? Però è stato approvato alla Camera, approvato alla Camera quasi all'unanimità, con certo delle persone contrarie, delle astensioni, ma questo è normale perché non si può poi costringere tutti ad essere d'accordo. E questa volta invece il Partito Democratico si è impantanato su questo. Sa cosa dice oggi Ignazio La Russa, che è un fiero oppositore di questa legge? Fa un'intervista, proprio Repubblica mette un'intervista a lei e Ignazio La Russa, dice vabbè, la norma era, questa legge era confusa e quindi non sono maschilista, non è una difesa maschilista, anzi, aggiunge La Russa, se proprio vogliamo vedere, visto che mater semper certa e pater numquam, allora mettiamo il cognome della madre, se vogliamo essere, cioè provoca anche un po' La Russa. Sì, provoca mente e soprattutto non ha letto la legge il povero collega La Russa, perché il problema è che mater semper certa, siccome questa norma si applica anche ai figli adottati, quindi già lei si comincia a capire che c'è un problema. Ma il vero problema di La Russa è che quello che non sopporta La Russa è la scelta, cioè lui considera confusa una legge che dà la possibilità alla coppia di scegliere se dare il cognome paterno, se dare quello materno, se dargli entrambi. No, è chiaro, cioè è lui vuole che lo Stato si intrometta nella vita individuale. Cioè, o meglio, vuole che le cose non cambino. Vuole che le cose non cambino. Oppure che lo Stato decida, secondo la vecchia tradizione, questo lo conosciamo benissimo, l'interferenza dello Stato all'interno della vita privata delle famiglie. Va bene, allora tra l'altro sai che c'è stata un'altra questione di genere di cui si è parlato molto di recente alla Camera, l'ha portata avanti la Presidente della Camera, Laura Boldrini, e sulla quale vorrei il suo parere, sulla questione di come definire anche le cariche istituzionali. Sentiamo che cosa ha detto Laura Boldrini di recente, suscitando soprattutto su Twitter un bel paio di polemiche. Ci sono più professoresse che professori, ma se io chiamassi il maestro Giancarlo Rossi la maestra, signora maestra, venga, venga, si accomodi signora maestra, se io chiamassi il direttore Calabresi direttrice alla terza volta, mi direbbe: ma scusi, lei ha un problema, lei ha un serio problema. Io ogni giorno mi sento chiamare signor Presidente, ogni singolo giorno, e basta! E basta, onorevole Marzano, ha ragione o è una battaglia un po' così di retroguardia questa della Presidente Laura Boldrini? Ma guardi, io sono un poco sensibile a questo tipo di cose, nel senso che per me... basta dire signora Presidente, che poi come accade in Francia, Madame le Président, per dire, per cui si riconosce il sesso e il genere e poi si utilizza la carica, diciamo, carica, esattamente, storicamente perché, maschile, diciamo così. Ma no, più che altro la carica che non ha né sesso né genere, perché poi anche lì a voler assolutamente mettere dappertutto il sesso e il genere. No, però il presidente, insomma, signora presidente si dovrebbe dire. Sì, oppure appunto sì, signora presidente va benissimo, ma voglio dire, a me quando io appunto poi il mio lavoro, quello di essere professoressa universitaria, ma se mi dicono professore, io non ho problemi, perché la mia carica, cioè per me quello è importante, ecco, intendiamoci, non è tanto come vengono talvolta definite e nominate le cariche, il problema è permettere alle donne, come agli uomini, di raggiungere posti di responsabilità. Cioè non confondiamo. No, ma infatti la vera battaglia. Esatto, ma infatti questa è l'accusa che fanno molti. In un paese in cui non si fa una vera battaglia di genere per, non so, garantire alle donne che hanno figli l'accesso al lavoro come gli uomini, a far carriera, eccetera, garantire la possibilità di fare carriera tanto quanto agli uni e agli altri, sembra una battaglia, come dire, no, in un paese che arranca in queste cose, fare la battaglia per la presidente, l'avvocata, l'avvocatessa, no? Sì, no, per questo, a differenza invece per esempio di questa legge che faceva uscire le donne dall'invisibilità, perché un conto è la carica, un conto, altro conto è permettere alle donne di accedere alla carica, altro conto è renderle invisibili, cioè negar loro la possibilità di trasmettere. Ne sceglie. Sentiamo un po', guardi, abbiamo due donne al telefono, ci hanno chiamato all'800 24 00 24. Luisa da Torino, buongiorno, che ne pensa lei? Ma io innanzitutto sono una di quelle della base del PD che non appoggia la parlamentare e che mi fa un po', spero fosse ironica, quando ho avuto il coraggio di dire che questa cosa sarebbe stata rivoluzionaria, perché la rivoluzione nella parità di genere non passa dal doppio cognome, dalla scelta. Questo l'abbiamo detto, rivoluzionaria, perché avrebbe cambiato una tradizione millenaria. Beh, avrebbe cambiato una tradizione millenaria, però. Su questi argomenti o si è seri o si fa del cabaret. Allora, stiamo facendo del cabaret. Una collega parlamentare giorni fa ha portato avanti, una collega parlamentare del PD ha portato avanti una battaglia che per me ha molto più senso, che anche lì le parlamentari del PD l'hanno banalizzata, non l'hanno appoggiata, che è quello sull'allattamento. Sì. Perché dice a un certo punto una cosa saggia, dice: se io faccio la parlamentare, c'è un bambino. Devo allattare. Ma guardi che non Luisa, devo però. No, devo allattare, devo poterlo allattare alla Camera. No, ma certo, no, però. Non è questo, non è dove devo allattare. Il discorso è che se faccio l'operaia, ci sono tutto un sistema complesso di norme che mi garantiscono la parità di genere. Se faccio un lavoro ad alto livello, questo complesso sistema di norme, che sarà anche fatto bene, ma non me lo permette. Ma guardi, ma Luisa, invece allora, guardi che sono arrivate molte critiche, non nei confronti della parlamentare che ha portato avanti un suo diritto giusto e sacrosanto, a dire: ma come, la parlamentare che non riesce ad allattare, parliamo invece delle tante operaie che lei ha detto hanno i diritti e invece magari perdono il posto di lavoro oppure non possono avere il posto di lavoro garantito perché fanno un figlio e non hanno gli asili nido, non hanno i soldi da mandare agli asili nido, eccetera. Quindi per qualcuno, come vede, tutto è relativo. La battaglia della parlamentare è una battaglia un po' radical chic, se vuole. Comunque onorevole Marzano, ha sentito la critica di Luisa a dire che non sì, sì, no, ho sentito, ma io voglio dire, perché poi ognuno può avere le proprie opinioni, io quello che sto semplicemente dicendo è che questa è una domanda che viene direttamente dalla Corte dei diritti europei, è una dobbiamo adeguarci. No, ma soprattutto noi siamo stati condannati per violazione del principio di uguaglianza, allora se noi lasciamo passare questa cosa e accettiamo le discriminazioni, a questo punto usciamo dall'Europa e facciamoci a casa nostra. Non lo dica, non lo dica, che adesso Renzi deve andare a battere i pugni. No, ma infatti, Ma infatti io quello che poi anche criticavo e contestavo ad alcuni colleghi, soprattutto alla presidenza del gruppo alla Camera, è di non aver capito nulla al messaggio che ci ha dato Renzi il giorno, la sera prima, quando durante l'assemblea ha detto: voi siete portatori di una grande opportunità e della responsabilità del cambiamento. Stiamo lì per cambiare, sì. Dobbiamo soltanto votare in un'ora e facciamo spazio. E invece è stata bloccata tutto. Va bene, in bocca al lupo per questa legge, insomma, per la sua per il suo comunque lavoro parlamentare. Grazie all'onorevole Michela Marzano del Partito Democratico. E voglio chiudere invece per parlare di un altro caso. Era previsto oggi il voto alle 11, ma è slittato nuovamente, come si prevedeva, il voto sulla richiesta di arresto per l'onorevole Galan alla Camera, la richiesta di arresto per la vicenda del Mose e la richiesta di arresto dei giudici dei magistrati di Venezia. Voglio salutare Paola Carinelli, che è il capogruppo del Movimento 5 Stelle da non molto, credo neanche, alla Camera. Buongiorno onorevole Carinelli, eccoci qua. Buongiorno a lei. Allora, è saltato ancora, ma il 22 si dovrebbe votare, questo almeno la presidente Boldrini ha detto, basta slittamenti. A voi, vi fidate, insomma, il 22 si voterà sulla vicenda Galan? No, appunto il problema è quello che in realtà il voto era inizialmente previsto per martedì, per cui già c'è certo. stato slittamento a giovedì, che appunto doveva essere oggi, ed è stato slittato settimana prossima, per cui nulla vieta che ci possa essere un altro slittamento. Infatti per quello siamo molto preoccupati, perché a noi era stato detto che slittava da martedì a giovedì, ora la capigruppo purtroppo ha deciso di slittare nuovamente da giovedì a settimana prossima. Potrebbe anche succedere che settimana prossima ci sia una nuova capigruppo che deciderà per un altro slittamento. Ma questo nonostante Laura Boldrini dica ora basta, però non ha l'ultima voce in capitolo, immagino. Sì, in realtà sì, l'ultima voce in capitolo ce l'ha lei, però quindi, appunto, in realtà quando ci eravamo parlati, io avevo parlato con la Presidente, mi sembra lunedì, mi aveva detto che ci sarebbe stato un rinvio a giovedì e eravamo rimasti che sarebbe stato giovedì, cioè oggi. Certo, sì, però ricordiamo che il gruppo ha diviso. Ma martedì il rinvio è stato dato perché Galan si trova in ospedale per motivi di salute, si è rotto la gamba e quindi anche gli avvocati dicono: scusate, se la rinviate martedì perché è in ospedale e ha 40 giorni di prognosi, giovedì sarà ancora in ospedale, cioè oggi, e mercoledì prossimo o tra 5 giorni sarà nuovamente in ospedale, quindi che senso ha rinviarla di 5 giorni? Cioè vi accusano di avere una fretta nel decidere, voi come rispondete? No, non è questione di fretta, ci sembra corretto dare una risposta, perché comunque la Camera ha il dovere di rispondere in maniera tempestiva. Io vorrei ricordare che comunque il passaggio in aula è già un ulteriore passaggio, perché io vorrei dire, forse sembrerà banale ricordarlo, però se la richiesta di arresto fosse stata per un cittadino normale, chiaro, tra virgolette, non onorevole, in questo momento sarebbe stato piantonato in ospedale come tutti i cittadini, per cui già l'onorevole Galan ha avuto diverso tempo, perché la richiesta d'arresto, ricordiamo, è ancora dell'inizio del mese scorso, per cui lui in teoria, se fosse stato un cittadino non parlamentare, sarebbe già stato in carcere dall'inizio del mese scorso, dagli inizi di giugno. Invece è ancora, diciamo, in libertà, per cui il passaggio prima tra l'altro della giunta, perché io vorrei ricordare che già c'è stato un passaggio in giunta. Ma è chiaro, è stato votato in giunta e ora ci vuole l'aula. Però le chiedo questo, non è, dice Galan, questo, però vorrei sentire anche il suo parere, dovere della Camera, come dire, di votare quando lui sarà presente, visto che si vota su una misura così strettamente personale? Beh, però diciamo quello che viene chiamato il diritto alla difesa mi sembra che sia stato ampiamente esercitato, perché Galan è stato audito dalla giunta e oltretutto ha presentato diverse memorie difensive che potrà presentare anche per l'aula, per cui io le ripeto, già ha avuto garanzie molto superiori rispetto ai cittadini non parlamentari, per cui adesso mi sembra eccessivo. Tra l'altro, purtroppo, diciamocelo, lo sappiamo che il fatto del farsi ricoverare o dell'avere problemi medici è una scusa che spesso purtroppo i politici in generale usano quando o sono arrestati o sono in prossimità. Sì, ecco, in generale, va bene tutto, io non voglio essere, però si è rotto una gamba, per cui adesso mi dispiace che sia in ospedale, per carità, però tra l'altro quello che gli hanno diagnosticato è una trombosi, sì, che è una diciamo una piccola effetto collaterale che credo che quasi tutte le persone che si siano rotte una gamba o possono un avere, sì, però al diabete insomma, ecco, no, ma infatti per concludere la mia questione era questa: voi, lei, dubitate delle condizioni di salute di Galan? A me personalmente appare molto sospetto, perché noi abbiamo visto i documenti e la prima visita è stata fatta, mi sembra, il giorno stesso, il giorno prima che la giunta deliberasse sulla sua richiesta di arresto, per cui il fatto che queste condizioni mediche siano improvvisamente peggiorate il giorno in cui la Camera ha deciso per il via al suo arresto, a me pare quantomeno sospetto. Staremo a vedere intanto se tra 5 giorni ci sarà o no questa votazione. Intanto la ringrazio, grazie a Paola Carinelli, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera. Con lei ci fermiamo, con Giorgio De Luca, Elisabetta Fusconi e Alessandro Marco Turni in redazione, e il nostro alpino Peter Bescapè in regia, che domani festeggerà l'ultimo giorno di lavoro con lo spumante offerto a tutta la redazione prima di andare in vacanza. Va bene? Un bombardino? Una grappina? Qualcosa? Alpino, portacelo, va bene. A domani alle 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.